13. New York era pioggia e sagome grigie. Le ruote della carrozza affondavano nel fango di Wall Street, mentre il cavallo arrancava fradicio sotto i colpi di frusta del cocchiere. Guy Johnson pensava alla lettera giunta il giorno prima. Da quando era tornato in America, aveva visto i sodali di un tempo partire uno alla volta per il grande incognito che iniziava sull'altra sponda dell'Harlem River. Era rimasto solo, accampato su un lembo di nuovo mondo che non era nemmeno terraferma. Ora gli eventi presentavano il conto di quell'inattività. Le giunture erano tornate a scricchiolare, ruggine tra le vertebre, sensazione di goffaggine e lentezza, emicranie. Era tempo di muoversi, serviva un colpo di reni. Il generale Howe, l'eroe di Boston, l'avrebbe senz'altro ricevuto, tra loro era nata una sorta d'intesa. Adesso andava a chiedere il permesso di armare una nave e salpare. Non si muoveva uno spillo a New York senza il benestare del generale. Lo si poteva paragonare a un dittatore dei tempi antichi che reggeva la città nell'unico modo possibile, con il pugno di ferro e l'appoggio della flotta comandata dal fratello, l'unica persona di cui davvero si fidasse. Una coppia scomoda gli Howe. I newyorkesi avevano dovuto impararlo a proprie spese. Del resto erano gente riottosa e indisciplinata, tutti contrabbandieri che avrebbero preferito continuare a fare affari senza pagare dazi alla corona. Non per niente allo scoppio dell'insurrezione avevano fuso la statua di Re Giorgio per farne proiettili da regalare a Washington. La carrozza rallentò davanti a un drappello di soldati in giubba rossa che pattugliava la strada. La gente si scostava per farli passare, lanciando occhiate indifferenti. Poco più in là, un paio di ceffi incatenati alla gogna, coperti di lordura. Uno di loro sembrava fissare Guy. Sull'altro lato, una seconda pattuglia di soldati, le stesse divise rosse, la pelle scura, negri che cercavano di arruolarne altri. Il mondo cambiava in fretta, pensò Guy. Un giorno sei schiavo, il giorno dopo soldato di Sua Maestà, alti e bassi. Tornò a pensare alla lettera ricevuta. Daniel Klaus comunicava che era tornato da Londra. Un anno di anticamera gli aveva fatto guadagnare il comando degli irregolari indiani nell'imminente controffensiva. Scriveva da Montreal, dove si era ricongiunto a Sir John per reclutare volontari. Lo invitavano a raggiungerli entro l'inizio dell'estate. Il destino sapeva essere beffardo. Guy aveva lasciato il tedesco al punto più basso e adesso era lui che gli offriva un posto al suo fianco. Klaus scriveva che avrebbero aspettato le truppe regolari per dare inizio alla spedizione. Era convinto che questa volta avrebbero portato in guerra parecchi indiani. Anche Joseph Brandt sarebbe stato della partita. Joseph, il suo traduttore, pensò Guy, l'interprete del dipartimento. Il vecchio Sir William aveva visto giusto quando lo aveva scelto come pupillo. A Londra quell'indiano era diventato famoso e sicuro delle proprie possibilità. Partendo in capo a pochi giorni poteva farcela, raggiungerli e cogliere la sua parte di onore militare per gentile concessione di Daniel Klaus e Sir John Johnson. Il pensiero gli scavava lo stomaco. Avrebbe potuto riabbracciare le figlie. Klaus le aveva con sé, riportate da Londra perché si ricongiungessero al padre. Scriveva che Esther era cresciuta ormai, che non l'avrebbe riconosciuta. Guy si chiese se le piccole ricordassero la sua faccia. Viaggiare attraverso la colonia era impensabile. I ribelli tenevano l'entroterra. Bande di irregolari correvano in lungo e in largo a caccia di bottino, spie e ostaggi. Doveva ottenere il permesso di armare una nave, risalire fino alla baia di San Lorenzo e a Quebec, imboccare il fiume, un viaggio lungo e difficile. La carrozza fermò davanti alla residenza del governatore militare. Guy scese lesto. Fece il saluto alle sentinelle di piantone che lo lasciarono entrare. Credevo che il clima inglese fosse ingrato prima di trascorrere un'estate e un inverno a New York. Il generale Howe era in piedi accanto alla finestra. Da quella posizione godeva la vista della distesa di tetti, interrotta dai pennoni delle navi ormeggiate davanti alle banchine. Gabbiani dal piumaggio sporco si riparavano dalla pioggia sotto i cornicioni, scrutando le strade sottostanti, in attesa di un boccone insperato. «Il maltempo mette vostra eccellenza di cattivo umore?» «No, signore, sono fin troppo al sole per dirla come il principe di Danimarca». «Quando vostra eccellenza cita Shakespeare, di solito la faccenda è grave». Howe indirizzò un'occhiata sfuggente a Guy. «Mi stanno mettendo da parte, colonnello Johnson. Come dovrebbe essere il mio umore?» Vi prendete gioco di me, generale. Re Giorgio non ha ufficiale migliore di voi. Hao fece un sorriso storto. Dimenticate che sono anche membro del Parlamento, del partito sbagliato. Indicò a Gai una sedia dall'alto schienale di legno. Lui sedette. Notò la bottiglia di sherry vuota a metà, lasciata aperta sul tavolo. Il generale lo invitò a servirsi, ma lui rifiutò, con un inchino del capo. «Guardatemi, colonnello Johnson», disse Howe, continuando a fissare la città. La voce era arrochita dall'alcol e dai pensieri. «Avete davanti l'uomo che ha salvato Boston. Espugnare Brad Seal è costato il sangue di tanti buoni soldati. Per due volte ci hanno respinti con i tiri da lontano. Quanti ufficiali avrebbero ordinato un terzo attacco? Uno ce lo avete davanti. Abbiamo preso quella dannata collina e poi tutto il maledetto promontorio». Sfiorò il vetro con un gesto delicato in netto contrasto con l'uniforme e il tono aspro. «Poi è stata la volta di New York. Una corsa a tappe forzate per precedere Washington. I miei uomini tenevano la città quando i rinforzi dall'Inghilterra dovevano ancora arrivare. Abbiamo combattuto qui a Manhattan, a White Plains, abbiamo espugnato i forti, cacciato i continentali. Ho spedito Cornwallis dietro Washington perché lo inseguisse fino all'inferno, ma questo dannato paese è molto più grande dell'inferno». Si interruppe per concedersi un sospiro. «Nessuno ha gettato l'anima in questa guerra più del sottoscritto, colonnello Johnson. Credete l'abbia fatto perché la ritengo una guerra giusta? Vi sembrerà strano, ma non è così. Io sono stato eletto per il partito Whig. Ero contrario alla politica del nostro governo in America. Ho agito per il bene dell'Inghilterra e perché sono un suddito fedele di Sua Maestà. Ho compiuto il mio dovere di soldato, anche se non ero d'accordo. E qual è la ricompensa? Spedire Burgoyne a prendere il comando dell'offensiva di terra», ghignò amaro. «Dopo tutto quello che ho fatto sul campo, non si fidano di me. Temono che diventi troppo ingombrante, capite? Così mi accusano di attendismo, di ritardare l'attacco verso l'interno. Le voci nascono alla Camera dei Comuni, ma si odono bene anche da qui». Si volse e prese posto sullo scranno foderato di broccato rosso. «Facciano pure, si spingano nell'entroterra, pieni della loro tracotanza». Guardò Guy Johnson. «Non voglio offendervi, colonnello, ma la sicumera dei tori è foriera di leggerezza, e Dio solo sa quanto la guerra sia pesante». Con un gesto ampio della mano, il gentiluomo lo invitò a proseguire. Non si sentiva per niente offeso. Fin dall'inizio le loro discussioni politiche si erano fondate sul reciproco rispetto. Era stato Guy a suggerire che se a Londra Samuel Johnson frequentava lo stesso club di Edmund Burke, un Johnson assai meno famoso poteva fregiarsi di conversare con un generale di fede Whig. Howe osservò la bottiglia di sherry senza toccarla, come valutasse il da farsi. «Burgoyne conosce poco questo paese», continuò. «Crede di scendere dal Canada e incontrare qualche banda di agricoltori armati di forconi e vecchi schioppi. Vorrei tanto sapere come pensa di mantenere linee di rifornimento lunghe 200 miglia». Scosse la testa. «Per quanto mi riguarda, mi terrò sempre a portata della costa. Parola mia, in America, una buona flotta di copertura è l'unica garanzia. Anche noi attaccheremo, ma a sud, verso Filadelfia. Prima dell'inverno espugnerò anche quella città». Sollevò appena le spalle. «Sempre che me lo lasciano fare», aggiunse. «Così tutti i porti del nord saranno nostri. Tenere i porti significa tenere i commerci e le vie di comunicazione con l'Europa. Cos'altro serve a una potenza navale come l'Inghilterra?» Bussarono alla porta. Un attendente entrò con un plico di fogli che sottopose all'attenzione del generale. Hao impugnò la penna e la intinse nel calamaio. «Dovete perdonarmi, colonnello. Avete certo chiesto udienza per un motivo e io vi ho annoiato con le mie elucubrazioni». Guy si schiarì la voce, ma le parole non uscirono. Pensava all'offerta di Klaus e al posto di comprimario che gli sarebbe toccato. Pensava alla Mohawk Valley in mano alla milizia ribelle, a Johnson Hall trasformata in caserma. Chissà chi dormiva nelle stanze di Guy Park. Bifolche e staglieri, ladri e razziatori. La loro puzza doveva aver contaminato i muri. Non se ne sarebbe più andata. Chissà se avevano trovato il tesoro di famiglia. Pensava ai lunghi giorni di navigazione, ai pirati che assaltavano i bastimenti in nome di una nazione nuova e affamata. Pensava alle zanzare e di nuovo a Daniel Klaus che gli tendeva la mano. Guardò la città oltre il vetro, alle spalle del generale. Un raggio di sole aveva forato le nubi e investiva in pieno la finestra. Sono qui per portarvi i miei omaggi, eccellenza, e sincerarmi che la vostra salute sia buona. E certo, per rimettervi i miei servigi, qualora potessero esservi utili. Ve ne sono grato, signore, rispose distratto Hao, mentre iniziava a siglare le carte. So di poter contare sul vostro appoggio. La mia salute è ottima, non preoccupatevi, a parte il cuore avvelenato. Ma adesso vogliate scusarmi, devo firmare le condanne a morte di quest'oggi e non è un'attività che inclini alla conversazione. Guy si alzò, fece un inchino e si diresse verso l'uscita. Colonnello? Lo richiamò il generale. Eccellenza? Disse Guy, voltandosi. Hao teneva la penna d'oca a mezz'aria, sulla punta l'inchiostro, nero e denso come il sangue che avrebbe fatto versare. Tornate a trovarmi, prima che anch'io mi getti in questa grande offensiva. Stirò un sorriso. Berremo una bottiglia di cognac e parleremo un po' di Londra. Guy annuì e imboccò la porta. Aveva scelto. Si sentiva più leggero, non certo migliore.